stiamo parlando, Andrea? Dicevi, scusa? No, ma? No, no, volevo chiedere cosa riguardo il film. Va bene. chiedila pure. No, chiedi non questo film. Vabbè. Ah, allora dopo. Ah. Vabbè, benvenuti. E buon Natale, episodio numero 224. Che poi io divento scemo tutte le volte a cercarlo, ma voi ce l'avete scritto, quindi io potrei anche non dirlo. E non mi aiuta né me al montaggio, non mi dà proprio una mano, cioè non serve proprio a niente dirlo, smetterò di dirlo. Questa è l'ultima puntata in cui dico che numero di episodio è, l'ho detto. Oh no. E, torniamo con un film di Natale che non è il classico film di Natale. E, oddio. È il nostro classico film di Natale. È un film dell'anno scorso e è su Prime, distribuito dalla Warner Bros, quindi tra qualche mese sarà su Netflix. No, non lo so, boh. Non so bene come funzionano gli accordi, ma va bene lo stesso. E, il regista è Jake Kasdan, che io non conosco. Ma proprio niente. Regista? Ah, ha fatto New Girl, forse. Ah no, Madonna, è quello di Jumanji nuovo. Vedi, sono un coglione. È il regista dei due Jumanji nuovi. E in effetti ha fatto lo stesso film. Scusa, è lo stesso film, è uguale. Il film in questione si intitola Red One, o come è stato tradotto in italiano, con molta fantasia, ma stavolta letterale, Uno Rosso. Molto bravi questa volta. Il film è stato presentato con degli attoroni incredibili, perché abbiamo Dwayne Johnson, Chris Evans come coprotagonisti, J.K. Simmons che interpreta grande Nick Santa Claus. Non so se posso dirlo. Cosa? Vabbè. E l'antagonista è interpretato da Kiernan Shipka, o come cavolo si pronuncia il suo nome, che è Sabrina, vita da strega, no? E poi abbiamo Lucy Liu, che è presa grande. Solo perché a un certo punto tira fuori i bastoni e prende a botte la gente. un ruolo di Nick Kroll, che deve essere una mezza comedy o mezzo coso, in effetti riesce nel suo ruolo. E poi basta, non ho scordato nessuno. Allora, quindi niente, il film appunto è stato presentato con questo cast incredibile, e credo sia anche costato una quantità di soldi abbastanza elevata. Ed è un film di Natale, ma della serie Jumanji, cioè comunque avventura, azione, commedia, fantastico, tutte queste cose qua. Di cosa parla questo film? Allora, il personaggio principale, il protagonista di questo film, abbiamo due protagonisti principali. Chris Evans, che interpreta Jack O'Malley, bambino che... classico bambino che dice Babbo Natale non esiste, pezzo di merda, e guardate i regali che vostro padre vi darà la mattina di Natale, e sono uno stronzo. Questo da bambino viene presentato da adulto, in cui diventa un hacker ladro, non so cosa c'entri col bambino, ma rimane pezzo di merda. Più che pezzo di merda è super egoista, ma cioè non è proprio cattivo, è quel cattivo buono, quel Han Solo. Han Solo, sì, corretto. E l'altro coprotagonista è interpretato da Dwayne Johnson ed è il bodyguard di Babbo Natale, Cal Drift, insomma, che cosa dire, è il bodyguard di Babbo Natale, che però è stanco del suo lavoro, vede che il mondo sta diventando pieno di cattivi e nessuno ha perso la magia del Natale, quindi vuole dare dimissioni al suo capo, come ho detto, Babbo Natale, interpretato da J.K. Simmons, incredibile, palestratissimo. Mamma mia, tanta roba. Quindi questi due protagonisti sono coinvolti in questa trama classica da film natalizio, in cui Babbo Natale viene rapito dalla strega cattiva, letteralmente, e spoiler, e loro devono ritrovarlo. Lui, perché di fatto è coinvolto, cioè lui, diciamo, Jack O'Malley, perché di fatto è coinvolto nel rapimento, perché senza volerlo ha dato informazioni ai rapitori su come trovare Babbo Natale, e Cal Drift, perché è il capo della sicurezza, insomma, era più o meno il suo lavoro tenere Babbo Natale al sicuro, cosa che fallisce in tipo 2 secondi. E il film inizia così e continua in questa sorta di ricerca per Babbo Natale, passando per quello che viene chiamato il dipartimento di, non so se c'è la traduzione italiana, Mythological Oversight and Restoration Authority, quindi un'agenzia, diciamo, che sorveglia le creature magiche e le tiene nascoste. E quindi in questa chiave fantastica vengono presentati alcuni personaggi sia del Natale sia di altre culture natalizie, e quindi diventa una sorta di Percy Jackson, Jumanji, però con la skin di Natale. Allora, l'aneddoto di questo film è che io l'avevo proposto, ma in gag, perché non trovavamo un film di Natale valido, cioè un film di Natale non valido, ma coerente con questo podcast. E allora l'ho proposto, però dicendo che questo era un film particolarmente brutto. E quindi io spero di aver abbassato così tanto le aspettative che ai miei compagni di podcast, Jacopo e Andrea, questo film alla fine è piaciuto, vero? Vero! Troppo vero! Allora, è piaciuto, è una parola molto forte. Non andrei così là, però dai, non mi ha fatto sbigozzare come ci anticipavi. Cioè, non è noiosissimo, come ci avevi detto tu. Però me lo sono già scordato, quindi sì. Cioè... Perché stai ritrattando, Jacopo? Avevi detto che era bellissimo. Allora, non ho detto che è bellissimo, ho detto sicuramente non è il peggior film che ha fatto Dwayne The Rock Johnson, ma... Dwayne Rock Johnson ha fatto Red Notice, che è un altro film con Red nel nome. Vabbè, però Red Notice il prossimo film è molto peggio. Secondo questo trend, il prossimo film con Red nel titolo, con Dwayne dentro, sarà stupendo. Sarà tipo premio Oscar. Se questo è crescendo. Vi faccio una domanda. Facciamo una rubrica anticipata. Non fate nulla, togliete la mano dalla tastiera e dal telefono. Avete visto Rotten? No. Non guardate. No, Andrea l'ha visto. Andrea l'ha visto, vaffanculo, Andrea. Ma di questo film intendi? Sì. Ah, sì, l'ho visto prima. Peccato, perché la differenza di score è 59% sui critici e pubblico. Io aspetto. Perché comunque dal punto di vista di intrattenimento è abbastanza onesto. È che di fatto il film non è niente. È giusto. Esatto, non è niente. Cioè, io sono un po' a metà, nel senso che dico, ci sono film migliori, cioè Die Hard, no, senza ironia, è meglio di questo film come film di Natale proprio, se volete vedere un film di Natale. È meglio in generale, ovviamente, come film. Questo però, film parla proprio del Natale. Però, cioè, parla di Natale... Però come film di Natale, cioè da vedere a Natale... Ah, no, certo. Anche, cioè nel senso, perché alla fine... Allora, ci sono alcune cose che potevano essere interessanti, ma non lo sono, tipo la roba di Krampus, o potevano puntare di più su The Rock, sul fatto che è un po' disilluso, eccetera. Cioè potevano puntare tutto su queste due cose, perché secondo me il solito... adulto Chris Evans che deve ritrovare la magia del Natale, riappacificarsi con il figlio, eccetera, potevano anche lasciarlo a casa. Ha rotto il cazzo. Anche perché, secondo me, è lui il problema del film. Cioè, nel senso, a me la cosa che più ha divertito di questo film, che è dire tanto, è quando Dwayne The Rock Johnson e Lucy Liu parlano e dicono cose folli molto seriamente. Cioè, loro... Sì. No, ma la lore del film è carina, cioè è abbastanza interessante. Cioè, non interessante davvero, ma è interessante come viene usata. Sì, cioè, è chiaro che stanno un po' strizzando l'occhio, cioè è chiaro che loro si stanno divertendo con quelle cazzate che dicono. Però quei due personaggi lo dicono, cioè ci credono, non so come dire. Non so, è un'occasione mancata. L'ultima sequenza è carina, poi. L'ultima sequenza del film con... vabbè, spoiler. Con quella di Babbo Natale, quella è incredibile. Quella è fatta, secondo me è fatta a Dio, e anche il combattimento sulla spiaggia con The Rock non è male. Eh? Cioè, c'ha dei momenti sto film dove dico, c'era un film qui dentro, forse. non so, se lo spingevano più in queste due direzioni... Boh, non lo so, un'occasione sprecata, secondo me. Poter fare una cosa più proprio un classico, proprio una roba... Ma io mi sono auto-ipnotizzato e dicendo che il film è una merda, perché me l'ho scordato, era questa la verità. Allora l'ho riguardato e in realtà mi è piaciuto. Grande! Allora ha funzionato su te stesso. Chiaro, non tutto il film, ci sono alcune cose che effettivamente... un po' un'altra di coglioni, però in generale ha delle cose molto fighe. Appunto, la sequenza in spiaggia è molto divertente. Mi è piaciuto il Chris Evans, cioè Jack O'Malley, come solita spalla comica, anche se le battute sono sempre quelle, è sempre uguale. Cioè, ci sono i mille film, c'è quello che non sa un cazzo, ma fa cioè fa il finto disinteressato, il finto superiore, sì, eccetera, fa quelle battutine un po' del cazzo. Cinico, sì. Però, mi ha fatto quasi ridere, cioè è incredibile. E mi è piaciuta l'ultima sequenza. Cioè, secondo me Babbo Natale palestrato è, come al solito, il miglior Babbo Natale che un bambino possa mai voler vedere. Vero. Anche, devo dire, potevano sfruttarla meglio, ma anche avere una scena con... la strega e Krampus che si picchiano tipo kaiju, poteva essere... Cioè, anche quella roba lì potevano spingere di più, il fatto che la sua ex fa sì, un po' di violenza sulle donne, scusa, un po' di violenza domestica. Letteralmente 2 minuti. No, neanche. 30 secondi. Boh, è tutto un po' così, è tutto un po' a caso. Ah, l'altra scena stupenda, relativamente al film, Krampus... che vuole dare uno schiaffo a The Rock. Io stavo godendo tantissimo, ho detto per favore, perché poi The Rock è nato per questo, cioè The Rock è nato per essere picchiato per finta, per picchiare per finta, quindi quella scena ci stava. Andrea, che ci dici? No, non capisco, cioè ma che film avete guardato? L'avete psicanalizzato troppo, cioè, ma che è Jumanji di Natale, basta, non serve dire altro, è bellissimo. Cioè, ti è piaciuto, quindi, a posto. Simmons che allora... fa parkour, cioè, è perfetto. Però devi guardarti tutto il film per vedere J.K. Simmons che fa parkour. Cioè, Krampus Nacht, cioè, la gara degli schiaffi, cioè, il campione degli schiaffi, cioè, è tutto perfetto, non lo so. Beh, ci sono dei pupazzi di neve che togli il naso e crollano. Se è per questo. Andrea, posso dire il tuo commento è lo stesso che hanno avuto i produttori di questo film quando hanno visto la prima versione montata? No notes. Va bene così. Stampatelo, mandatelo alle sale, è fatta. Stampiamo soldi. No, vabbè, abbiamo visto film di Natale più belli, ma questo non è così male. Cioè, davvero, io mi sono auto-ipnotizzato. Ma, non lo so. Poi lei è in gamba, visto... secondo me, come si pronuncia, cioè la... Vabbè, è quello perché ti piace, lasciamo stare. Il... Ma no, dai, vabbè, ci sta. È vero, però... Oh, Andrea, come sempre, Veggio vincere. Non lo so, lei purtroppo l'ho vista in Sabrina e non riesco più a guardarla da nessun'altra parte perché, ne parlavamo prima di cominciare a registrare, in Sabrina lei, vabbè, non era così grande, però comunque aveva 20 anni praticamente, viene truccata come una 12enne, una 13enne. Però è chiaro che è tutto fake, è come guardare The Rock quando si rimpicciolisce nel film, che è un nano ma in realtà è alto come una persona normale. Lei è uguale, cioè lei è 13 anni ma in realtà la vedi che ha 20 anni, e quindi non riesco più a guardarla seriamente. Quindi qua che ha una sorta di parte cattiva, tra virgolette, perché poi vabbè, per quanto possa essere cattivo un film di Natale, piccolina, esatto, non riesco proprio a vederla seriamente. Invece a me è piaciuta Lucy Liu. Beh, ma io sono di parte. Dai, Lucy Liu io non capisco. E come? Che ha accettato questo ruolo. E vabbè, si voleva divertire. Che... magari i soldi di Charlie's Angels sono finiti. Che ne sai? Sì, forse quello, sai. Non lo so, boh. Incredibile. Sì. Niente. Sì. Chi è la moglie di Babbo Natale? È famosa. È famosa, non mi ricordo però come si chiama lei. Ha fatto... Forse ha fatto altri film di Natale. L'ho già vista. Boh. Come si chiama? Cerchiamo su... Si chiama Bonnie Hunt. Trovata adesso. Bonnie Hunt. Beh, lei ha fatto il primo Jumanji. Ecco. Ecco. Tutto ecco collegato, cioè, è la sì, la coprotagonista insieme a boh. Sì, vabbè, ma avrà avuto quanti anni? Cioè, non l'ho riconosciuta per quello, boh, non lo so, però mi sa di già vista Bonnie Hunt. Vabbè. E, che altro? Allora, il film è costato un botto, se ho capito bene, tipo 250 milioni di dollari, e chiaramente non li ha rifatti. L'indice di gradimento, come dicevamo, è basso per la critica. In realtà è andato abbastanza bene per il pubblico, però poi l'ha venduto a Prime, quindi non so quanti soldi abbia fatto su questo. E se volete vedere qualcosa di Natale un po' così, un po' cialtrone, un po' non serio, un po' fantastico, io lo consiglio. Adesso no, non l'ho venduta bene, devo dire, è un film di merda, non guardate male. Per me ha funzionato, potrebbe funzionare anche con voi. Dobbiamo dire altro su questo film? Questa puntata breve. No, non credo. Breve puntata. Se avete dei film di Natale simili, che non siano troppo seri, che non si prendano sul serio, eccetera, qualcosa del genere da consigliarci, noi aspettiamo consigli. Non uscite fuori con la commedia romantica, perché purtroppo esatto, non la guarderemo. Ma il problema qual è? Il problema qual è? È che l'anno prossimo, Salla, lo anticipiamo, i film di Natale saranno ben due da vedere, quindi uno sicuro, l'altro non lo so. Aspetta, sai cosa potremmo fare, Salla? Adesso lo propongo qui pubblicamente, così diciamo, me ne prendo la responsabilità. Potremmo fare una puntata sui cinepanettoni. Oh, silenzio. No. Ma intendi che li devo vedere? Allora, non necessariamente, però guardando la puntata di Tintoria con Floris, ho scoperto che Floris è appassionato di cinepanettoni, e questa cosa mi ha, non so, mi ha molto stupito. Ma io non sono uno che segue tanto, che seguiva Ballarò o che segue il nuovo programma, però non so, mi ha risvegliato una curiosità. Vabbè, di rianalizzare la mia infanzia. Il 10 gennaio 2026 uscirà una puntata sui cinepanettoni. Ok. Non intendevo così a stretto giro, però va bene. Avete tutto il Natale per guardarveli. Oh no. Cosa ridi? Io ne ho visto uno solo. Dove sono recuperabili i cinepanettoni? Non ne ho idea, infatti non pensavo. No, li hanno bruciati tutti. Non pensavo che, come si dice, chiamassi il mio bluff. Che... No, va bene. Voglio proprio vedere... Sì, ah, sicuramente Natale in India, che ho già visto, è l'unico che ho visto. Natale in India forse l'ho visto anch'io, anche Natale in Egitto, tipo. No, non è Natale in India, ho visto Natale sul Nilo io. Non voglio costringere Andrea a guardare nulla, quindi possiamo anche parlarne così, diciamo... No, ormai l'ho registrato, cioè è tutto in diretta. Eh no, però appunto non... Ah, tu dici, lo taglio in post, va bene. No! Non è quello, cioè, possiamo anche parlarne in generale, non per forza scegliendone uno, dico. Va bene, va bene. Dai, andatevi a vedere Uno Rosso, se non l'avete visto, oppure no. È un film orribile, non guardatelo, non vale la pena, è noiosissimo, eccetera. E buon Natale, e noi ci vediamo a gennaio, direi, con un nuovo episodio sui Cinepanettoni. Ciao! Ciao! Buon Natale!